Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Che cosa chiederemo come cittadini a un metodo di diagnosi medica, insomma uno di quegli esami che ci capita di dover fare? Beh, che sia veloce e indolore, e pensando alle nostre tasche di contribuenti, anche che costi poco possibilmente. Un medico probabilmente aggiungerebbe due richieste, e cioè che questo metodo sia sensibile e specifico. La sensibilità misura la capacità di un esame di individuare i malati. Per esempio, l'80% di sensibilità vuol dire che su 100 malati ne riconosco 80. La specificità invece misura quanto un esame è in grado di evitare falsi allarmi. Per esempio, 80% di specificità vuol dire che su 10 individui che risultano positivi a una patologia, 8 ce l'hanno davvero, mentre 2 sono appunto dei falsi allarmi. Ebbene, l'oggetto di cui parliamo stasera punta a unire tutte queste qualità. Parliamo di un naso elettronico capace di fiutare nell'alito la presenza di un tumore al polmone, che è anche uno dei più difficili da individuare precocemente. Lo si sta sperimentando allo IEO, cioè l'Istituto Europeo di Chirurgia, sotto la guida del vice direttore della chirurgia toracica, il professor Roberto Gaspari, che è in linea con noi. Buonasera Gasparri. Buonasera, dottor Melis. Allora, senta, ci descriva un po' questo oggetto e anche come funziona, per quanto possibile, ovviamente è una cosa complicata. Sì, esattamente. Abbiamo iniziato la sperimentazione di questo prodotto olfattivo artificiale, che è un naso elettronico, letteralmente, che consiste di un dispositivo piccolino dove si possono mettere dei piccoli sensori all'interno, considerate un piccolo computerino. È molto caratteristico questo test perché è molto semplice, deve solamente soffiare. Questo alito viene contenuto in un sacchettino e il sacchettino viene connesso a un beccuccio di questo piccolo computerino. Quando viene assorbito l'alito, sì, dentro questo computer, l'alito sbatte attraverso questi sensori e attraverso un meccanismo fisico interagisce l'uno con l'altro, emettono delle vibrazioni e queste vibrazioni costituiscono una fingerprint, un'impronta. Questa impronta viene disegnata sul computer ed è l'impronta specifica di chi è il cancro. Questo dispositivo, sì, ha dato la possibilità, appunto, come diceva lei, di differenziare il soggetto malato da quello sano. In questo caso si parla di screening, cioè un esame che ti serve per riconoscere una popolazione molto più piccola sulla quale concentrare degli esami eventualmente anche un pochettino più approfonditi. Ecco, se ho capito bene, è un po' come se uno riconoscesse dal rumore che fa quando passa un treno sulle rotaie che è un treno piuttosto che un tram, piuttosto che qualcos'altro, no? Esattamente. È una cosa di questo genere. Così, sì. Benissimo. Senta, quali sono i vantaggi rispetto a forme di screening attuale che abbiamo a disposizione, di diagnosi attuali che abbiamo a disposizione per questa patologia? Beh, consideri che una grossa quantità di soldi vengono spesi esattamente per fare TAC, per fare esami che sono prevedono un costo elevato. E questo dispositivo, per contro, dicevo, i costi di gestione sono bassissimi, la semplicità di esecuzione è molto ampia per il paziente e inoltre è facilmente da applicare in campo clinico. Voi considerate un piccolo computerino che voi potete posizionare sopra una scrivania del medico di base, per esempio. Certo. Questo consentirebbe di far fare il test al proprio assistito e nel caso in cui risultasse, sì, positivo, potrebbe poi procedere ad esami molto più specifici e molto più costosi. Quindi questo primo esame costituirebbe un filtro. Una scrematura. Una, no? Scrematura, esattamente, dottor Melis. Ecco, e tra l'altro diciamo che al di là del tumore al polmone, questo è un approccio, no, su cui si punta molto, non solo appunto per questa patologia ma anche per altre. E a proposito, a che punto siete di questa ricerca? Non parliamo di qualcosa di pronto immediatamente, quali sono i prossimi sviluppi? Beh, questa ricerca, innanzitutto consentitemi solamente di dire che noi abbiamo realizzato un progetto di ricerca sperimentale per 3 anni finanziati dall'AIRC ed è arrivata proprio a sancire un dato molto importante. Abbiamo ottenuto un 80% di sensibilità, sì, e un'ottima specificità, quindi siamo già a buon punto. Certamente noi la ricerca non è finita qui, dobbiamo andare avanti per cercare di aumentare l'accuratezza diagnostica e per questo motivo intendiamo di aumentare sicuramente la popolazione da conoscere, ma aumentiamo anche la sensibilità dei sensori lavorando sul tipo di sensore elettronico che, trattandosi di un dispositivo elettronico, è in continua evoluzione, quindi è facilmente manipolabile e quindi si può migliorare sempre di più. Ecco, tornando alla metafora del treno, diciamo che da un lato lavorate sul microfono cercando di renderlo più sensibile, questo microfono che misura le vibrazioni, dall'altro state cercando di registrare quanti più modelli di treno possibile, no? Per riuscire a riconoscere tutti i treni quando passano, cioè tutti i malati di tumore al polmone. Assolutamente sì, anche questo è un altro elemento importante, perché tanti più cancri riusciamo a diagnosticare, tanto più possibilità abbiamo di differenziare da quelli che sono sani. Per cui questo è il nostro primo obiettivo, proprio trattandosi di un oggetto di screening, ed è il primo obiettivo di questo. Senta, c'è anche la possibilità di partecipare, come? Sì, mandate un'email a bref.test@eo.it, bref.test@eo.it. Perfetto, perfetto, grazie. Ancora Roberto Gasparri. Buonasera, dottor Melis.